Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. A bordo campo di Dario Ricci. Buongiorno e benvenuti a Bordo Campo. Ci muoveremo lungo i sempre più sottili confini che separano sport e cultura, politica, società, costume, per provare a capire le derive dello sport nel nostro tempo e, perché no, anche nel futuro. E allora partiamo subito col nostro viaggio, che ci porta dall'America all'Italia e ritorno, sulle tracce di un campione e del suo pallone da calcio. Beckham, there's an empty net. Kevin Hartman is in a race to get back. Beckham is going to try it over the halfway line. He's gonna hit an empty net! What a goal from David Beckham! You have to excuse my Italian, but buonasera. La prima cosa è un grazie de cuore. Amo la Italia e sono felice. And Beckham saw Sullivan off his line! Oh! That is absolutely phenomenal! What an astonishing goal! È sbarcato in Italia il 21 dicembre scorso, ma già sembra uno di noi. David Beckham, a 33 anni, inglese, icona mondiale del calcio fashion, in coppia con la moglie Victoria, ex Spice Girl, dopo coppe e scudetti vinti nella sua Manchester con la maglia dello United e in Spagna con Real Madrid, dopo aver scelto l'esilio dorato a suon di milioni di dollari nella Lega del Calcio statunitense con i Los Angeles Galaxy, ha deciso di indossare la maglia del Milan. Fino a marzo però, perché dopo lo Spice Boy dovrebbe, il condizionale d'obbligo, rifare armi e bagagli e tornare a giocare negli Stati Uniti. Ma che calcio è quello a stelle e strisce? E come vive un calciatore laggiù, nella terra del baseball, del football americano, del basket NBA, dove il soccer, così lo chiamano, non è una religione e senza, soprattutto, l'ingaggio milionario di Beckham? La curiosità, ammettiamolo, era tanta e allora abbiamo provato a fare una telefonata a San José, California, a un ospite davvero particolare. Sentite com'è andata. Buonasera, sono Dario Ricci da Radio 24, da Milano. Davide Somma? Ciao, buonasera. Ciao. Come stai? Bene, tu? Sì, bene, bene. Qua è ancora la mattina, qua sono le 11. Infatti, scusami per l'orario, spero di non averti svegliato, Davide. No, già stavo sveglio, stavo qua in ufficio, stavo filmando un po' di cose perché è finito il campionato. Bene, insomma il contratto sì. Per la nuova stagione stai firmando. Sì. Senti, guarda, ti disturbo perché io ho fatto un reportage sul calcio americano e scorrendo i nomi dei giocatori sul sito ufficiale della Lega ho visto che c'era un Davide Somma, dico ma... Questo qua mi sembra proprio italiano, insomma. Sì, sono italiano. Giocavo, il mio ultimo club era in Sardegna, Olbia Calcio, stavo lì, l'anno scorso. Come sei finito negli Stati Uniti? Raccontaci un po' la tua carriera, perché ho visto tu sei nato in Sudafrica. Sì, nato in Sudafrica, poi quando avevo 13 anni, mia mamma ha vinto la carta verde, è una visa che poi vive in America, quindi... Abbiamo venuto qua in 96 e poi sono andato a scuola, collegio, poi sono andato subito in Spagna con Logroñés dopo collegio, c'avevo un provino lì, però non è andata bene perché non ha pagato i giocatori e tutto quanto. E poi da Logroñés in Spagna stavo con mio procuratore che stavo con lui in casa e poi sono andato a Perugia. Come sei arrivato al calcio italiano? Con questo tipo posso dire un procuratore, sì. Amico di mio padre, tipo così. Quindi sei arrivato al Perugia, poi quanto sei stato al Perugia? Perugia quasi un anno, quello quando stava Gaucci, quell'anno lì. E poi non è andata bene perché è successo quello casino lì a Perugia, quindi sono andato a Serie C2. A Provasto, sì. Stavo lì 2 anni a Provasto e poi sono andato a Olbia, l'ultimo squadra era Olbia in Sardegna. Dalla Sardegna ti ritroviamo adesso nella Lega Americana, San José, sì. Earthquakes. Senti, il salto... Sì, San José Earthquakes. Sei tornato a casa ma te l'aspettavi? No, non aspettavo che tornavo a casa perché a me mi piace giocare in Europa, Italia era... Calcio italiano è bello, cioè mi piace tantissimo, però come si dice, Serie C2 non andava tanto bene perché non mi pagavano, c'erano un po' di problemi e poi non lo so, però ho detto fammi provare un anno e mezzo in America, fammi provare come stanno. Ci aiuti a capire un po' meglio come è questa Lega Americana, che livello di gioco hai trovato? Posso dire è tipo, non è alto come Serie B, un po' meno di Serie B, però c'hanno un buon giocatore qua. Io penso se portano giocatore come, perché Francisco Lima stava qua con noi, che giocava 4 anni con la Roma, abbiamo un po' di giocatori da Inghilterra, quindi io penso se portiamo altri giocatori qua da altri posti, calcio americano, anche David Beckham sta qua, quindi calcio da 10 anni sta crescendo molto qua. È un calcio che per svilupparsi ha anche delle regole particolari, per esempio i vostri stipendi non sono certo come quelli dei calciatori europei, no? C'è un tetto, un livello. Sì, c'hanno un livello, però si pagano perché c'hanno soldi qua in America, se sei un buon giocatore ti pagano bene. L'unica cosa che lì in Italia stava bene perché mi pagavano la casa, la macchina. Qua non fanno così, qua devi pagare tutto, devi trovare la casa da solo, è solo quello, perché posso dire che è giovane qua in America, c'è queste cose qua, però stanno crescendo tantissimo. Ora Beckham è in Italia e com'è stata vissuta questa notizia negli Stati Uniti e pensi che possa avere qualche riflesso sulla popolarità della Lega di calcio americana? Pensi possa diminuire l'interesse negli Stati Uniti per il soccer nel caso Beckham dovesse rimanere qui in Italia? Questo è vero, però io penso che lui sia andato perché non giocavo come alto livello come Europa, quindi Capello forse ha detto per la nazionale, ha detto forse che deve andare a migliorare in Italia per giocare per il mondiale. Che tipo di spettatori avete? So che il calcio è la grande passione dei tifosi sudamericani, centroamericani. Sì, tifose bene, vengono a nostre partite, ci abbiamo quasi, no, 10.000 ci abbiamo. Se giochiamo contro Beckham, oltre 30.000 viene. Tu hai giocato contro Beckham? No, perché io sto qua solo 3 mesi. Io ho firmato tardi perché sono tornato da Italia. Era finito il campionato lì in Italia, è tornato qua subito. Perché non è stesso tempo. Sono momenti diversi dell'anno. Che futuro ti immagini ora per il calcio americano? Secondo te, visto che tu conosci anche il calcio europeo, cosa bisogna fare per conquistare veramente i tifosi americani? In che senso? Che dobbiamo prendere più tifosi? Come si può sviluppare ancora il calcio americano da questo punto di partenza che è la Major Soccer League? Ah, io penso, come ho detto, portiamo più giocatori da Europa, io penso questo, che può aiutare MLS, perché già che abbiamo portato Beckham e questi qua, sta crescendo tantissimo MLS. Per il tuo futuro tu sei convinto di rimanere a San José, come ti sei trovato? No, mio sogno è sempre in Europa, Italia, però adesso ho 23 anni e voglio, perché lì voglio un stage, voglio che mi vedano in televisione, perché C2 non c'era televisione, nessuno si vede, quindi volevo provare solo, non lo so, dipende quanto mi fanno un contratto qua per il prossimo anno, forse faccio un altro anno, vede come va e poi non lo so, perché c'ho anche un altro procuratore, c'ho ancora questo procuratore in Italia, quindi lui mi ha detto se non va bene puoi tornare quando vuoi, però voglio andare Serie B o Serie A, perché quello è calcio perfetto per me. Tu quanto guadagni a San José? qua si chiama, era solo developmental, significa, perché qua in America solo 18 giocatori prendono stipendi alti, l'altro che vengono, che, perché è arrivato tardi, prende solo mille dollari al mese, perché non possono prendere più di 18 che guadagnano più di quello. Quindi tu guadagni $1,000 al mese? Sì, quindi il prossimo anno ho già devo prendere un contratto, perché il mister mi vuole, ho fatto bene qua in 3 mesi e mi ha detto che sto sulla squadra dei 18. Quindi il prossimo anno sicuramente, non lo so, dico una cosa, non lo so, forse 5.000 euro al mese prossimo anno. Faccio un contratto bene. Certo, certo. Mettiamo che utilizziamo questa intervista per un'inserzione, per offrirti sul mercato del calcio italiano. Descriviti come giocatore. Sì, sono alto 1,85 m, posso dire trequartista, o alla sinistra, o destra. Corro tanto, c'ho un buon tocco di palla, c'ho visione bene. Tattica posso crescere un po' di più, perché in Italia mi ha fatto crescere tanto in queste cose, perché qua in America non c'hanno queste cose ancora. Non facciamo tanto tattica come in Italia, come ho avuto lì in 3-4 anni lì in Italia. Qual è il tuo idolo, qual è il giocatore in cui ti identifichi? Il mio favorito giocatore è Cristiano Ronaldo. Grazie mille, in bocca al lupo, okay. A presto. Ok, Crepi, grazie Dario. Ciao, ciao, ciao Dario. Okay, ciao, ciao, ciao. If you wanna be my lover. E allora davvero buona fortuna a Davide Somma, altra squadra, altra fama, altro ingaggio rispetto al celebre David Beckham, ma in fondo lo stesso sogno, giocare in Europa, nel calcio che conta. A bordo campo. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. La battaglia di Gaza City arriva alla stretta finale. Miliziani di Hamas e truppe israeliane si affrontano ormai a sud e a nord del centro abitato. They came with their tanks and their planes. We have a fight with Hamas, not with the people of Gaza, not with the Palestinian people. The goal of the operation is to change realities and give the Israeli civilians the possibility to live peaceful life. Women and children alike, murdered and massacred night after night. L'annuncio è di qualche ora fa. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato all'unanimità una tregua unilaterale nella striscia di Gaza. Dopo 22 giorni di guerra e più di 1200 morti, le armi adesso potrebbero tacere. Il cuore gonfio di dolore, lo sguardo verso la sua terra martoriata. Davvero di questi tempi Roberto Ketlum, 27 anni, centrocampista del Brindisi in Serie D, ha poca voglia di incantare i tifosi con tiri a effetto e colpi di tacco. Perché di voglia di giocare a calcio ne viene davvero poca, se sei, come Ketlum, un calciatore della nazionale palestinese e guardi verso Gaza. Una storia che arriva da lontano, quella di Roberto, dal Cile fino al Medio Oriente. Sono nato in Cile, ho cominciato a giocare calcio lì, nell'Università Cattolica, squadra di Serie A, e ho fatto tutta la primavera lì e un anno con la prima squadra. Poi sono stato acquistato da Palestino, un'altra squadra di Serie A, e lì ho cominciato i primi passi nel professionista. Nel 2002, alla fine del 2002, sono stato chiamato a integrare la nazionale palestinese. È stata una scelta all'inizio un po' difficile, perché rinunciavo alla possibilità di qualche giorno lottare per una maglia con la nazionale cilena, però insomma era quel momento, avevo quella possibilità concreta. Mio padre era molto entusiasta, lui essendo figlio di immigrante palestinese mi incoraggiava a accettare questa proposta, e anche era molto interessante a livello culturale, calcistico, conoscere un'altra cultura, il calcio in Asia che da noi non è molto conosciuto, e ho deciso di cominciare a giocare per la nazionale palestinese. Dura la scelta di indossare la maglia di una nazionale senza nazione. Ogni volta indossarla, quella maglia, è già una vittoria, ancora prima di scendere in campo. Non è facile ogni volta che andiamo a giocare tenere bene questa organizzazione, perché sempre ci sono difficoltà extra calcistiche che ci stanno intorno. E a volte i giocatori non possono arrivare al ritiro perché le frontiere palestinese con Israele sono chiuse, non lasciano uscire i giocatori per arrivare al ritiro. Dobbiamo cominciare sempre con qualche giocatore in meno, soprattutto quelli di Gaza. E poi ogni volta che siamo andati a giocare, noi sempre abbiamo giocato all'estero fino al 2008, che hanno costruito il primo campo FIFA dentro i territori palestinesi. Sempre prima giocavamo a Qatar, in Doha, o in Giordania, Amman. Sempre la gente ci ha trattato molto bene, i tifosi sempre hanno appoggiato la causa palestinese, e poi da tutte quelle parti sempre ci stanno parecchi palestini che sono stati esiliati dopo l'invasione del 48. Allora sempre, ovunque dove andiamo, c'è bella accoglienza da parte da tutti i palestini. Eppure, se corri dietro a un pallone, quasi capita di dimenticarla per qualche istante la guerra. E a volte addirittura non serve vincere a tutti i costi per regalare un pizzico di felicità. Quando abbiamo pareggiato la prima volta storica contro Kuwait, a Kuwait 3-3, e loro li abbiamo eliminato da avanzare alla seconda, al secondo girone, per noi il pareggio non né ci favoriva né ci impedisce. Però abbiamo pareggiato questo 3-3, e quando siamo tornati all'hotel c'erano tutti i palestini che abitavano a Kuwait City, gente molto umile, molto, molto semplice, che anche se non aveva niente ci dava dei regali, le foto, esultava, piangeva. Era la prima volta che nazionale partecipava come nazione palestinese dopo il 98, che è venuta riconosciuta con la FIFA. Allora sentire questa emozione, il significato per la gente che sta lì, te lo trasmette, è una cosa molto emotiva. L'emozione più grande: scendere in campo e lottare per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Atene 2004. È stato, sì, veramente emozionante, perché anche all'interno dei territori c'era molta aspettazione, e la Palestina in quei momenti è sempre vive momenti molto tristi, molto circondati da attacchi della guerra da parte di Israele, e portare un po' di soddisfazione, allegria e felicità a quella gente ci tocca a noi. Allora noi assumiamo questa responsabilità ogni volta che usciamo in campo, ed è una motivazione per noi, perché quando abbiamo fatto dei bei risultati, cioè la gente era, come penso a livello di felicità, come quando l'Italia ha vinto il campionato del mondo 2006, cioè erano tutti pazzi, felici, celebrando nelle strade. Sono piccoli momenti di felicità che loro possono avere in mezzo a tutta questa sofferenza che hanno giorno a giorno. Ma le bombe, la guerra, cancellano i sogni. E la nazionale di Palestina, dopo anni d'esilio, ora non ha più quella casa che aveva appena trovato. Con molto sacrificio, con l'aiuto della FIFA, dopo molti tentativi di tutti i palestinesi, si è riuscito a costruire questo campo, che è stato inaugurato il 30 ottobre, che era l'orgoglio per tutta la Palestina, avere l'opportunità di presenziare le partite della nazionale. Dopo la partita inaugurale è cominciato tutto questo, e adesso è completamente distrutto, non si può fare niente. Speriamo che adesso che l'acqua è un po' più calma, cominciamo piano piano a ricostruire non solo il campo, che era molto simbolico, ma tutte le case, tutto quello che è stato distrutto in Gaza. Ricostruire un nuovo stadio però ora è l'ultimo dei pensieri. Le foto che via internet arrivano sul PC di Roberto Ketlum ci ricordano la regola più amara di tutte le guerre: a pagare sono sempre i più deboli. Loro ci inviano delle fotografie che fanno loro, come sta succedendo, come sta capitando la situazione veramente all'interno di Gaza, perché a volte non è la stessa che noi possiamo vedere nei giornali o sulla TV. Sono veramente immagini molto, molto forti, molto, molto crude, spaventanti, cioè un sacco di fotografie di bambini neonati che stanno feriti o morti. è tutto questo che è veramente forte da digerire, che non è molto bello, però dobbiamo affrontarlo perché la realtà adesso è così. Sotto le macerie sono rimasti anche alcuni calciatori, tra questi Shadi Sbaké. Come sono lontani i tempi in cui lottava con Roberto per un posto in squadra? Shadi lo conoscevamo perché è stato in una preselezione della nazionale, è andato a un ritiro con noi nel 2004. Siamo rimasti molto coinvolti quando abbiamo, già dall'inizio che eravamo coinvolti per l'immagine che ci arrivavano, ma anche di più quando capita una persona che tu conoscevi, alla quale sei stato, ti sei allenato con lui, che non ti aspetti mai che queste cose capitano, ma invece è capitato, è stato molto duro. Le stragi compiute dall'esercito di Israele dimostrano una volta di più che le uniche bombe intelligenti sono quelle che non vengono tirate. Ma Ketlum non dimentica che a insanguinare Gaza è anche il fanatismo di chi vive per la guerra. Penso che il fanatismo esagerato di Hamas lo stanno pagando molto caro soprattutto i civili e i bambini che stanno all'interno di Gaza. Ma è una storia lunga, cioè loro avranno i suoi motivi, la pensano di una forma, stanno impegnati con la liberazione del popolo palestino, ma devono rendersi conto che in questo momento andare a lottare frente a frente contro Israele è molto pericoloso e pregiudiziale per il popolo palestinese. No, penso che non sia il modo di trovare un accordo. Utopia sognare oggi un domani di pace, ma quello che non cambiano le bombe possono cambiarlo il confronto e il dialogo. Prima di tutto bisogna fare un cambio di mentalità a livello sociale, sia in tutti i due lati, però se tu giorno dopo giorno continui a vedere queste cose è difficile cambiare la mentalità. Prima devono smettere le azioni di guerra, poi piano piano cambiare la mentalità e poi forse, non lo so, questo processo non è corto perché c'è una storia lunghissima dietro. Allora è tosta, sembra che sia una strada senza uscita. Io spero che la luce alla fine la possiamo trovare. Speriamo che quando Obama comincia a gestire la sua presidenza questa cosa vada piano piano diminuisca e troviamo la pace. Anche lo sport, anche il calcio possono dare una mano. Perché non rilanciare l'utopia e magari sognare una partita amichevole tra la nazionale israeliana e quella palestinese e magari proprio nel ricostruito stadio di Gaza? Guarda, se tutte le due parti hanno questa intenzione, a me sembrerebbe una iniziativa, cioè, proprio bellissima, perché sarebbe dare un passo, il primo passo forse, e poi che l'altra gente da tutte le due parti si contagi di questo entusiasmo, di questa iniziativa. Speriamo che qualche giorno si possa giocare questa partita della pace, perché penso che farebbe solo del bene. E allora, nell'era del calcio fashion e del samba ballato in campo a uso delle TV, Roberto Ketlum sogna un gol su un campo di provincia e un gesto che avvicini, finalmente, la pace. È un'iniziativa, il primo passo, e speriamo che così, con queste piccole azioni individuali, la gente che comincia a capire che nessuno, alla lunga nessuno è beneficiato di tutte queste cose che stanno succedendo lì, per l'umanità non è buono. E sì, se ho la possibilità di segnare e fare un piccolo gesto sulla pace di questo, lo farò. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.